stare fermi, non temere, saper restare calmi, stare al gioco di essere convinti, di vedere come andrà a finire. Questo è il mondo, queste le persone, chi ha un orgoglio, passione, chi combatte, chi invece si arrende, chi sorride come me e chi invece se la prende. È così che vanno le cose e nessuno le può cambiare. Venti hanno mille risvolti, come il vento cambia direzione. Ogni cosa che si fa per gioco può diventare importante. Ogni cosa che vedi come la tua vita te la fanno sembrare un niente. È così che va. Nessuno ci può fare niente, anche se cambiassero il colore del cielo, si vedrebbe l'universo. Pure se girassero il mondo al contrario, si rimarrebbe nell'altro verso. Giorno è una scommessa con me stesso, dimostrare di non essere sempre lo stesso, e svegliandomi sentirmi sempre il primo giorno. Freddo che fa sentire che in arrivo l'inverno, fare in modo che ci sia spazio per parlare, non far vedere che tutto riesco a percepire, c'è tutto un mondo che vive da sé. A volte neanche riesco a capire, una costante confusione che all'improvviso potrebbe finire. È così che vanno le cose e non c'è umano che le possa cambiare. Si potrebbero fare mille progetti, ma chissà se li potrai vedere. È così che gira il mondo.